Il terzo anello. Effetto Terra. Di Silvia Zamboni. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 da Silvia Zamboni. Nella puntata odierna cercheremo di fare il punto sull'evidenza scientifica raggiunta rispetto all'effetto serra, al noto fenomeno di surriscaldamento del pianeta che viene attribuito ai cosiddetti gas che produciamo soprattutto bruciando combustibili fossili, ma anche con il biogas emesso dalle discariche dei rifiuti urbani e dagli allevamenti intensivi di animali. Con gli esperti che saranno nostri ospiti oggi cercheremo anche di verificare a che punto è l'Italia rispetto agli impegni che ha assunto sottoscrivendo il protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale che vincola i paesi firmatari a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il nostro paese in particolare si è assunto l'obbligo di ridurre del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 le proprie emissioni di anidride carbonica, un obiettivo che ci impone di non superare la soglia di 483 milioni di tonnellate di anidride carbonica come ci è stato assegnato appunto dal protocollo. Se al contrario supereremo questa soglia, pagheremo salata la nostra inadempienza. Dal 1 gennaio di quest'anno, infatti, è cominciato il conteggio delle emissioni nel quinquennio di adempimento 2008-2012 del protocollo. Per cui al problema d'onore, chiamiamolo così, di rispettare l'impegno preso, se ne potrebbe aggiungere un altro di natura economica finanziaria, ovvero potremmo essere costretti ad investire risorse economiche piuttosto consistenti per acquistare dai paesi virtuosi i diritti di emissione che ci servissero per rientrare nei limiti assegnati. In altre parole, potremmo pagare cara la sottovalutazione del problema climatico che si è avuta in questi ultimi anni, ma anche la sottovalutazione del problema energetico. La crisi climatica si sta saldando strettamente a quella economico-energetica. Per quanto riguarda il petrolio, è dal 1985 che se ne consuma di più di quanto se ne scopra, ha messo in risalto l'ASPO, che è l'associazione internazionale che studia l'esaurimento delle riserve petrolifere. Poi, su quando si arriverà a esaurire le riserve del petrolio, la discussione è aperta. C'è chi parla di 40 anni. Questa situazione di crisi energetica ambientale potrebbe, al contrario, diventare motivo per innovare il comparto produttivo nazionale, ma non solo, rendendolo più efficiente e meno sprecone dal punto di vista energetico, e per aprire la nostra industria a nuovi mercati, a nuovi settori di ricerca e a nuove produzioni amiche dell'ambiente, come le fonti di energie rinnovabili, fermo restando che le fonti rinnovabili producono elettricità e quindi non coprono tutta la gamma dei consumi energetici. Basti pensare che i trasporti oggi sono alimentati per il 90% dal petrolio. Le fonti rinnovabili, sole, vento, geotermia, biomasse, possono supplire all'uso dei combustibili fossili se si attuano anche politiche di riduzione della domanda di energia, quindi se si attuano misure a favore del risparmio energetico e dell'efficienza energetica. In altre parole, occorre ridurre i consumi se vogliamo soddisfarli con le fonti rinnovabili. La prima fonte energetica a disposizione è proprio il risparmio, l'energia non usata, che è frutto non solo di tagli, ma di innovazione tecnologica. Un terreno, quello del risparmio energetico, su cui entrano in gioco anche i nostri stili di vita. I consumi del comparto elettrico registrati nel nostro paese nel 2007 ci dicono infatti che per l'1,8% erano a carico del settore agricolo, per il 48,8% a carico del settore industriale, per il 28,3% del terziario, ma per il 21,1%, quindi più di un quinto, del settore domestico. Nel testo che segue, tratto dall'Apocalisse rimandata, edito da Guanda, sentirete come l'autore, che è il premio Nobel Dario Fo, ironizzi, ma non tanto poi, sulla propria preoccupazione per i cambiamenti climatici. Il sottotitolo del libro è «Benvenuta catastrofe». Dario Fo immagina infatti che la catastrofe ecologica a cui stiamo andando incontro in maniera irresponsabile, secondo lui, possa rovesciarsi nel suo contrario, ossia nella possibilità di salvezza per il pianeta, che, liberato gioco forza dalla dipendenza dal petrolio e dall'elettricità che improvvisamente appunto viene a mancare, riscopre la bicicletta, il forno a legna e si serve dell'energia prodotta dal sole e dal vento. Ogni tanto sui quotidiani e riviste scientifiche si legge di convegni che si svolgono in centri diversi dell'Asia e dell'Europa. Si propongono regole e programmi per migliorare la condizione del pianeta, ma sembra che il dramma dell'inarrestabile surriscaldamento terracqueo non sollevi timori e preoccupazioni eccessivi nella gran parte della popolazione del pianeta. Esiste però un certo numero di cittadini per i quali, al contrario, il problema sta diventando una disperata ossessione. Io personalmente, lo devo ammettere, faccio parte da tempo di quest'ultima tormentata categoria. Non perdo occasione, appena incontro qualcuno, sia maschio che femmina, sia giovane che anziano, di sollevare il problema e di tentare il loro coinvolgimento. Un giorno, sull'aereo Palermo-Milano, ho agganciato una bellissima signora, anziana ma di un'eleganza raffinata. Sembrava uscita da una sequenza del Gattopardo di Visconti. Appena ho accennato al disastro atmosferico, mi ha afferrato una mano e, accarezzandola, mi ha supplicato: «Oh sì, me ne parli, mi interessa moltissimo». Ho iniziato la mia lezione con entusiasmo. Vede, il problema è complesso e articolato, ma esplode una feroce diatriba appena si comincia a discutere di come salvare la Terra e ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica. La signora mi seguiva come incantata. Io incalzavo. C'è chi dice basta diminuire per gradi, ma drasticamente, l'uso dei motori a scoppio con propellente fossile, eliminare le vecchie caldaie per il riscaldamento delle case, degli uffici e installare nuovi impianti di eolico, solare e, perché no, anche nucleare. La signora ha un sussulto. La tranquillizzo schioccandole un piccolo bacio sulla fronte. Non si preoccupi. Oggi come oggi riprendere col nucleare è una soluzione improponibile. Ma lo sa che per riuscire a produrre energia pulita sufficiente per il 50% del fabbisogno globale dovremmo costruire una centrale nucleare alla settimana per i prossimi 63 anni? E quindi, mi chiede la deliziosa creatura che ormai pende letteralmente dalle mie labbra, e allora, se l'intera umanità, i governi, i produttori, gli stati, non si impegnano in un'azione stravolgente, creando nuovi sistemi produttivi, potenti e non inquinanti, siamo alla fine. La signora, con un'espressione addolorata, implora: «Oh, salvaci!» e si butta fra le mie braccia. «Faremo l'impossibile», balbetto, leggermente imbarazzato, ma poi mi riprendo. «Vede, signora, il problema saranno i paesi orientali emergenti. Non dimentichiamo che la Cina sta superando ormai il 1.300.000.000 di abitanti e che l'India ha superato a sua volta il 1.000.000.000. La signora, sconvolta, si stringe sempre più a me. Giungiamo a Milano. «La prego, parli con i miei figli, sarei felicissima di poter vivere con lei». Dal fondo del corridoio appaiono un medico e un infermiere. Caricano su una sedia a rotelle la signora, che non abbandona mai la mia mano. «Grazie di avermi regalato questo stupendo viaggio», dice mentre la legano alla poltrona mobile. Poi aggiunge: «Lei dovrebbe fare l'attore». Il medico si rivolge a me e chiede: «Non l'ha importunata, spero? Purtroppo ogni tanto esce letteralmente di senno». La signora è già in fondo al corridoio e, rivolgendosi al suo accompagnatore, esclama: «Che bella storia mi ha raccontato quel signore, era così romantica, peccato non sapere come finisce». È proprio vero. Il mestiere del divulgatore scientifico è carico di insidie e delusioni. Sergio Castellari è il focal point dell'Italia dell'IPCC, ossia il punto di riferimento per il nostro paese della task force di scienziati dell'ONU che si occupa da anni dei cambiamenti climatici. Dottor Castellari lavora al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici e all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sede di Bologna. Ci ha raggiunto in studio, è qui con noi. Buongiorno. Permane un certo scetticismo rispetto ai cambiamenti climatici indotti dall'effetto serra. Qual è, dottor Castellari, il grado di evidenza scientifica che si è raggiunto in questo campo, effetto serra e cambiamenti climatici in atto? Negli ultimi 5 anni, con l'ultimo rapporto uscito l'anno scorso, si è arrivato ormai a uno stato della ricerca che non ha forti dubbi sulla causa dominante del riscaldamento globale negli ultimi 30-50 anni, cioè dovuta all'aumento delle emissioni dei gas serra, quindi CO2, metano, protossido d'azoto, PFC e HFC. E quali sono le previsioni che si fanno circa l'innalzamento della temperatura? Si fanno degli scenari, cioè delle assunzioni su possibili futuri, E meno male se si continua come adesso, senza fare nessun intervento forte, molto più forte del protocollo di Kyoto, sicuramente si raggiungerà il raddoppio della concentrazione atmosferica della CO2 globale rispetto a un livello preindustriale, cioè verso la fine del 1700, probabilmente entro il 2050, anche prima. E sicuramente si potrà arrivare anche in termini di temperatura, sicuramente questo presupporrà un aumento almeno di 2 gradi, anche più, probabilmente 3 gradi rispetto sempre a livello preindustriale. Questo presuppone degli impatti sicuramente molto forti, si presuppone un forte innalzamento del livello medio globale del mare, un ulteriore scioglimento dei ghiacci della Groenlandia ad esempio, quindi non soltanto ghiaccio marino, un'ulteriore riduzione dei ghiacciai montani, che già sono in un trend di, non tutti, ma la maggior parte si stanno ritraendo, poi chiaramente un forte impatto sulle risorse idriche. Ecco, mentre voi scienziati delineate questi scenari poco incoraggianti, la politica su altri tavoli cerca di trovare degli accordi. Allora, siamo entrati nel quinquennio di adempimento del protocollo di Kyoto 2008-2012. È partito già anche l'iter per arrivare a un nuovo protocollo post-Kyoto, quello che ha visto la conferenza di Bali e si concluderà a Copenaghen nel 2009, appunto con la conferenza di Copenaghen. Come valuta questi processi? Io sono ottimista perché la conferenza di Bali sicuramente ha creato un processo e in più l'ha delimitato nel tempo, perché infatti nella politica si creano tanti processi ma non si danno delle timeline. Ha dato anche una possibilità ai paesi di incontrarsi non solo 2 volte all'anno nei meeting tradizionali della Convenzione Quadro dei Cambiamenti Climatici, ma anche 2 meeting extra. Quindi ad esempio quest'anno si sono incontrati a Bangkok, a Bonn, si incontreranno a dicembre in Polonia. E quindi sicuramente si è messo sul tavolo un obiettivo di riduzione di emissioni di gas serra globale, con anche il coinvolgimento, questo è importante, degli Stati Uniti, perché in questo tavolo negoziale gli Stati Uniti si siedono anche se non hanno ratificato il protocollo di Kyoto. In più c'è anche il coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo, però con economia emergente, come Cina, India e Brasile. Poteva essere fatto di più, è vero, ma poteva anche essere fatto di meno. Cioè si poteva rimanere in quella situazione stagnante, ma Bali ha dato un colpo, uno scossone a questa stasi negoziale sulle mitigazioni. E invece il G8, la riunione del G8 che c'è stata a luglio, questa ha sollevato pure una certa delusione, perché come scadenza appunto per definire provvedimenti si sono dati il 2050, cioè sembra appunto che la scienza sia molto più avanti come percezione della gravità della situazione. Beh, in realtà il G8 ha richiamato l'importanza della decisione presa a Bali nel 2007, del processo di questa roadmap di Bali fino al 2009. Nella conclusione del G8 clima si parla di un obiettivo globale di riduzione entro 2050 delle emissioni globali rispetto all'anno di riferimento del 1990, come si presuppone nella decisione di Bali. Questa decisione del G8 del 2008 può supportare in maniera forte il processo di Bali per arrivare a Copenaghen, quindi non la vedrei in maniera negativa, bisogna sempre essere positivi nella diplomazia ambientale. Ricordo che siete sintonizzati su Radio 3 Rai e che è in studio con noi Sergio Castellari. Dottor Castellari, dunque abbiamo parlato delle politiche di mitigazione, quindi di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Ci sono però anche le politiche di adattamento, quindi le contromisure che tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici anche sul piano economico. Ci vuole spiegare così prima la tipologia e poi vediamo qualche caso concreto? Uno dei concetti che è emerso dal terzo rapporto di valutazione globale pubblicato nel 2001 è che l'adattamento è necessario e è impossibile farne a meno, perché già viviamo in un mondo dove abbiamo già degli impatti dei cambiamenti climatici. Un esempio è sicuramente l'innalzamento del livello del mare per le piccole isole, il ritiro dei ghiacciai montani, che pongono quindi dei grossi problemi e ripercussioni sul turismo, sui processi economici e sociali di quelle aree. Quindi dobbiamo assolutamente, come paesi sviluppati, avendo maggiore capacità tecnologica, scientifica ed economica, porci il problema di come cercare di adattarci a questi impatti che dovrebbero aumentare con l'aumento della temperatura media globale. E si potrebbero arrivare anche degli impatti quasi irreversibili. Detto questo, cosa significa fare delle politiche di adattamento? Significa qualsiasi azione che riduce i danni di un impatto dei cambiamenti climatici. Uno Stato sviluppato, a mio parere, dovrebbe iniziare a elaborare una strategia nazionale e da lì incominciare a impostare con la strategia un piano nazionale di azione. Questo piano dovrebbe essere un piano reattivo e un piano però anche preventivo, sapendo già che ci sono certe zone che potrebbero essere sensibili a, ad esempio, le zone delle Alpi, un ulteriore ritiro dei ghiacciai, questo potrebbe quindi porre dei grossi problemi al turismo invernale. Bene, un adattamento preventivo significa già porsi il problema a livello economico. Come fare per programmare economicamente nei prossimi 30 anni un possibile turismo, motivare il turismo estivo, ad esempio? Ecco, veniamo proprio al nostro paese. Ci stiamo muovendo sul piano delle politiche di adattamento? Allora, l'anno scorso il precedente governo aveva organizzato la Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici. Lo scopo era di elaborare delle linee guida per un piano nazionale sull'adattamento. Infatti era preceduto da dei workshop su varie tematiche, sugli impatti in vari settori in Italia. Mi auguro che ci sia questa sensibilità nel continuare questo lavoro, nell'instaurare ad esempio un gruppo di lavoro sull'adattamento a livello nazionale, dove si cercano di coinvolgere gli esperti scientifici, tecnici, gli stakeholders, quindi anche i principali attori in questo problema. Quindi stiamo parlando ad esempio sia degli enti di ricerca, ma sia anche delle agenzie di servizio, delle ARPE regionali, delle autorità di bacino, degli operatori turistici sulle coste o nelle aree montane. L'Italia da questo punto di vista è indietro rispetto ad altri paesi europei. La Finlandia è stata la prima. La Finlandia, teniamo conto che è un paese sicuramente con una popolazione molto minore rispetto a quella italiana, si parla di pochi milioni di persone, ha elaborato già da almeno 2 anni una strategia nazionale sull'adattamento. E negli altri paesi che ci sono? Negli altri paesi l'Olanda sta lavorando su questo, chiaramente molto interessata alle coste. La Francia ha iniziato, perfino la Spagna adesso ha un piano nazionale sul clima che sta elaborando, dovrebbe essere già finalizzato anzi. L'Italia quindi è un po' indietro rispetto a questo, però credo che alla fine bisogna per forza fare i conti con l'adattamento, non si può fare altro, anche perché sono le condizioni economiche che lo spingono. Ho partecipato negli ultimi 2 anni a un progetto sulle Alpi e gli attori principali erano chiaramente le comunità montane e i vari operatori turistici, quindi loro vogliono delle risposte dalla comunità scientifica sugli eventuali scenari di impatti, poi vogliono dai governi locali, nazionali, regionali, delle risposte sulle azioni, perché la differenza che c'è tra adattamento e mitigazione è la scala spaziale, mentre la mitigazione per avere effetto deve essere globale, deve presupporre una governance globale, un'azione proprio di negoziazione che includa la maggior parte dei paesi del nostro pianeta. Le azioni di adattamento non richiedono questo, si possono sviluppare a livello locale, quindi da questo punto di vista è più facile, però richiedono dei fondi subito. E si ha notizia di fondi stanziati dal nostro paese? Per adesso non mi risulta, però speriamo con la nuova finanziaria. La ringraziamo molto, dottor Castellari, di essere stato con noi e per le informazioni che ci ha dato. Grazie, buongiorno. Ratificando il protocollo di Kyoto, l'Italia si è impegnata a ridurre del 6,5% le emissioni di anidride carbonica rispetto ai livelli di emissione del 1990. E da gennaio di quest'anno sono cominciati i conteggi sulle emissioni del nostro paese per verificare il rispetto degli impegni sottoscritti. Fino all'anno scorso però le emissioni, anziché diminuire, erano aumentate, al punto che per essere in regola avremmo dovuto tagliare il nostro contributo non più solo del 6,5%, ma quasi del 19%. Come stanno le cose adesso? Lo chiediamo all'ingegner Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, l'associazione di imprese italiane attive nel campo della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Chiedo subito, ingegnere, ce la possiamo fare a rispettare gli impegni presi? Credo di no, ormai siamo troppo in ritardo e quello che possiamo fare è quello di ridurre il gap che ci separa da Kyoto, che è di circa 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Se va bene riusciremo a dimezzare questo gap, perché siamo già entrati nel quinquennio in cui si conteggiano le emissioni, quindi anche se facciamo una corsa siamo molto in ritardo. Però quello che importa è che continuiamo l'accelerazione che è iniziata un paio d'anni fa, perché la sfida non è soltanto ridurre le emissioni per cercare di colmare la distanza che ci separa dagli obiettivi di Kyoto, ma l'obiettivo al 2020. Quindi noi abbiamo avviato, noi parlo di Europa, una vera e propria rivoluzione energetica che in Italia è partita in ritardo, perché non si credeva in realtà che il protocollo di Kyoto sarebbe realmente entrato in vigore e quindi la nostra industria è partita in ritardo. Non abbiamo saputo cogliere le opportunità che sono presenti in un cambiamento così drastico di contesto energetico. Ricordiamo che altri paesi e non parlo solamente della Germania, della Danimarca, ma la Spagna è partita molto dopo di noi, eppure adesso si è creata un'industria dell'energia eolica, dell'energia solare, che esporta in tutto il mondo, esporta anche in Italia, e quindi loro sono riusciti a fare di Kyoto anche un business. Senta, quali sono i settori dove siamo più in difficoltà e quelli al contrario dove stiamo recuperando? Il settore in cui si stanno ottenendo più risultati più interessanti è quello dell'edilizia, grazie anche a una normativa che sul versante della riqualificazione dell'edilizia esistente con le detrazioni fiscali del 55% ha dato una grossa spinta, e la nuova normativa prevede che gli edifici che vengono realizzati in Italia dal gennaio 2010 avranno un consumo che sarà circa la metà di quello che era ammesso nel 2005, e alcune regioni, per esempio Emilia Romagna e Lombardia, l'hanno addirittura anticipato al 2008. In più c'è l'obbligo del solare termico e fotovoltaico in tutte le nuove case, quindi un segnale forte sul versante dell'edilizia è stato dato, e devo dire che anche il mondo delle costruzioni ha reagito bene, ci sono i costruttori che adesso fanno anche di più di quanto prevede la norma. Dove siamo invece più indietro è il settore dei trasporti. Manca una visione strategica di quello che si deve fare. Anche le città, gli enti locali che 10 anni fa avevano fatto cose egregie, stentano adesso a tenere il passo, mentre credo che proprio nelle città si giocherà la partita, e nella mobilità abbiamo il cuore delle risposte da dare. Si sente anche riparlare del ricorso al nucleare. In termini di rispetto del protocollo di Kyoto, a suo parere, il nucleare potrebbe dare un contributo utile e significativo? Ma intanto parliamo di tempi. I primi kilowattora nucleari si avranno all'inizio non del prossimo decennio, ma del decennio successivo, cioè 2020, 2022, 2023. Il problema però del nucleare è soprattutto di tipo economico, costa troppo. È il mercato che ha messo in ginocchio il nucleare, non gli ambientalisti. Negli Stati Uniti non si costruiscono centrali nucleari dal 1978, proprio perché là è il libero mercato che orienta le scelte degli investimenti. Quindi credo che sia più sensato spendere intelligenza e risorse economiche verso l'efficienza energetica rinnovabile, che danno le risposte subito. Gli Stati Uniti l'anno scorso hanno installato 5.000 megawatt di energia eolica, cioè un terzo di tutta la potenza elettrica installata negli Stati Uniti. Su questo io credo che avremo delle grosse sorprese nei prossimi 10 anni, 15 anni. Quindi quando il nucleare effettivamente arriverà con numeri discreti, cioè fra 15 anni, troverà dei competitors molto agguerriti. Vi ricordo che state ascoltando Radio 3 Rai, è in studio con noi il dottor Gianni Silvestrini e stiamo parlando appunto di effetto serra e impegni dell'Italia per rispettare il protocollo di Kyoto. Nella prima parte della nostra intervista accennato al 2020, quindi diciamo agli impegni post Kyoto. Ecco, cosa prevedono orientativamente questi impegni su cui si comincia a discutere? L'unica realtà che ha definito degli obiettivi unilaterali è l'Unione Europea. L'Unione Europea ha deciso l'8 marzo dell'anno scorso la famosa tripletta 20-20-20, 20% di efficienza energetica, 20% di contributo di fonti rinnovabili, 20% di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Per riuscire a giungere a questo obiettivo vediamo che sono percorsi molto ambiziosi. Per le fonti rinnovabili sostanzialmente significa triplicare la quota di fonti rinnovabili che abbiamo oggi in Europa, considerato tutto quello che è stato realizzato il secolo scorso con le centrali idroelettriche, quindi uno sforzo estremamente ambizioso. E perché l'ha fatto l'Unione Europea? Perché si è posto obiettivi così ambiziosi? Per due motivi. Uno è di carattere diplomatico internazionale, il fatto di dire noi facciamo la nostra parte rappresenta la carta vincente per far sedere attorno a un tavolo Stati Uniti, Cina, Russia, Brasile e tutti gli altri paesi perché si raggiunga un accordo per il post-Kyoto. E io credo che sarà positivo questo percorso, anche se molto accidentato, perché cambierà la presidenza degli Stati Uniti, l'Australia ha cambiato il governo da poco, ci sono le condizioni per arrivare a un accordo che definisca per tutti obiettivi ovviamente differenziati. La Cina si chiederà di non crescere così rapidamente, di ridurre il tasso di crescita, in altri paesi si chiederà di ridurre drasticamente le emissioni. Quindi secondo lei è una trattativa che può avere buon fine? Io sono convinto di sì. Dopodiché, il secondo motivo per cui l'Unione Europea si è dato obiettivi ambiziosi è di carattere, se vogliamo, di politica industriale. E la Merkel, che era presidente di turno dell'Unione Europea quando si è raggiunto questo accordo, l'ha detto esplicitamente: la Germania ha raggiunto obiettivi estremamente ambiziosi, anticipando gli obiettivi del 2010, e si è creata un'industria con 350.000 posti di lavoro proprio sulle fonti rinnovabili, e l'idea è proprio quella, darsi obiettivi ambiziosi come sistema Europa per diventare i leader mondiali delle fonti rinnovabili nel prossimo decennio. Ecco, questa è la vera sfida, una sfida per cambiare il sistema energetico e per dotarsi delle tecnologie che saranno le tecnologie di questo secolo. L'Italia ha una grande occasione, recuperare il tempo perduto e agganciarsi alla nuova onda delle fonti rinnovabili che sta dalla California di Schwarzenegger alla Cina, all'Europa, sta decollando, e rispetto alla quale o si è dentro o si rischia di essere travolti con un sistema energetico antiquato e obsoleto. Dal punto di vista dell'imprenditoria di casa nostra, vede dei segnali positivi, vede dei casi di eccellenza che potrebbero essere indicati appunto come esempi da imitare? Beh, c'è l'esempio classico di ST Microelectronics, che si è dato un obiettivo di praticamente azzeramento del proprio contributo in termini di emissioni dei gas climateranti attraverso misure di risparmio energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili, di riforestazione. Entro il 2010 sono nella traiettoria giusta. Ma l'elemento interessante in Italia degli ultimi anni, degli ultimi mesi, è proprio quello che si sta finalmente creando anche da noi un tessuto di industrie che puntano sulle rinnovabili. Stava avvenendo in molti paesi europei, in Italia eravamo in ritardo, ma adesso ci sono investimenti per centinaia di milioni di euro sulla produzione di silicio, produzione di celle fotovoltaiche, produzione di solare termico, insomma varie filiere tecnologiche. Quindi io penso che stiamo sulla strada buona per riuscire ad agganciarsi al treno che è partito. Grazie ingegner Silvestrini, speriamo che le sue valutazioni, diciamo, ottimistiche siano anche realistiche. Grazie a voi. L'ingegnere Pasquale Pistorio è stato vicepresidente di Confindustria con la responsabilità per la ricerca e l'innovazione. È stato presidente di STM Microelectronics e responsabile del programma Industria 2015 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Prodi. Buongiorno ingegner Pistorio. Buongiorno a lei. Ritiene che si sia creato una sorta di comune interesse tra ambientalisti in campo contro l'effetto serra e l'imprenditoria che invece ha le prese con l'aumento del costo del greggio? Credo che ci sia una enorme sensibilità che 10 anni fa non c'era, e questo è dovuto a diverse ragioni. La prima di tutto è che il costo dell'energia diventa sempre più importante, ma c'è anche una presa di coscienza che in campo ambientale non si tratta soltanto di costi, l'efficienza energetica rappresentano per l'azienda un vantaggio competitivo. Ecco, veniamo a STM Microelectronics. Quando lei ne era presidente, che tipo di migliorie e di misure ha preso per renderla più efficiente dal punto di vista energetico? Ma guardi, noi lanciammo nel 1993 una grande campagna ambientale, proponendoci di fare dei risparmi di tutti i tipi, soprattutto nell'energia, ma anche nell'acqua, nella carta, delle materie chimiche che noi utilizziamo, e abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali. Per esempio, per quanto riguarda l'energia, il goal che ci eravamo prefisso era stato quello di ridurre del 5% all'anno il fabbisogno energetico per unità di prodotto. Ebbene, l'abbiamo mantenuto fino a quando sono andato in pensione, anzi l'abbiamo leggermente superato portandolo al 5,2% di fatto, con un vantaggio enorme per la società. Mettendo insieme tutti gli aspetti che hanno comportato l'impegno ambientale, l'azienda ha realizzato risparmi di circa 900 milioni di dollari nell'arco di quei 12 anni. Ci sono altre imprese italiane che si sentirebbe di citare per la loro appunto virtuosità nel campo dell'efficienza energetica e degli investimenti che stanno facendo? Vedo l'Enel, Sorgenia, Edison, tutti i produttori di energia in genere impegnati nelle fonti energetiche mi sembrano molto impegnati lì dentro. Italcementi è una società che è molto impegnata nel campo energetico. La stessa Telecom Italia, pur non essendo un grande consumatore di energia, ha anche lei un impegno alla riduzione dei consumi energetici. La Fiat, credo che tutte le grandi aziende stanno facendo uno sforzo importante per cercare di ridurre i consumi, proprio perché, a parte qualsiasi impegno di natura etica, rappresenta un impegno importante sul conto economico. Quali opportunità offre in particolare il programma Industria 2015 che è stato varato con il governo Prodi, appunto, di cui lei è stato anche coordinatore? Diciamo che è un grande progetto industriale basato sulla ricerca. Comunque, per quanto riguarda l'energia, si riferisce al fatto di sviluppare nuovi processi e nuovi prodotti che consentano risparmio energetico attraverso appunto l'efficienza o anche attraverso le fonti rinnovabili, ma che allo stesso tempo abbiano una grande ricaduta industriale. Prevede che ci sia un consorzio di imprese, grandi, piccole, medie, associate con centri pubblici di ricerca, università, CNR, ENEA, quello che sia, che ci sia un alto contenuto innovativo, che sia identificato un piano industriale creando molti posti di lavoro, cosa che è avvenuto per esempio in Germania, dove le fonti rinnovabili hanno creato più di 200.000 posti di lavoro, solare e fotovoltaico. Siamo molto più indietro degli altri paesi. Le grandi imprese italiane stanno reagendo come le altre, si presentano bene al confronto. Le medie imprese reagiscono anche come le altre, ma forse sono meno sensibili. Le piccole imprese, per necessità della loro struttura, tendono a essere meno sensibili. Il problema è che noi abbiamo tantissime piccole imprese. Durante il mio mandato in Confindustria avevo lanciato un progetto chiamato IPERI, volto proprio alle piccole imprese, e durante il mio mandato abbiamo contattato più di 12.000 piccoli imprenditori in una serie di incontri, workshop, programmi, in cui c'era una sensibilizzazione nei riguardi dell'innovazione a 360 gradi. Devo dire che le imprese italiane stanno reagendo bene. Occorre però che non sia uno sforzo isolato delle imprese, quindi occorre che ci sia una politica industriale completa del paese anche in campo ambientale, in campo energetico. Grazie ingegner Pistorio, buon proseguimento. Grazie a lei. Il 23 giugno di 20 anni fa, James Hansen, il maggiore esperto di clima della NASA, davanti al Senato degli Stati Uniti lanciò l'allarme sull'effetto serra e sui pericoli che correvano il mondo e le future generazioni. 20 anni dopo, lo scorso 23 giugno, nell'anniversario di quella denuncia, dopo 8 anni di amministrazione Bush, in cui il problema ambientale è stato a lungo rimosso e negato, Hansen, di fronte alla Commissione Ambiente e Energia della Camera, ha accusato le compagnie petrolifere di aver sistematicamente sabotato ogni sforzo di comprensione del problema dell'effetto serra e ha chiesto di portare in tribunale i manager delle più importanti compagnie petrolifere, accusate da lui di alti crimini contro l'umanità e la natura, in quanto ha sostenuto che hanno diffuso dubbi sul riscaldamento globale, esattamente così come per anni hanno fatto le aziende produttrici di tabacco negando i legami tra il fumo e i tumori. Oggi guarda con speranza al prossimo presidente degli Stati Uniti che verrà eletto a novembre. Il 2009, ha detto, sarà un anno cruciale e il nuovo presidente avrà un'opportunità unica per galvanizzare il paese sulla necessità di trasformare il nostro sistema energetico. Hansen non solo propone di scommettere sulle energie eoliche e solare, ma sostiene che è fondamentale trovare nuovi modi per conservarla e distribuirla e che bisogna lavorare ad una moratoria delle centrali che bruciano il carbone. Tornando ora al nostro paese, abbiamo sentito dalle parole dell'ingegner Pistorio che l'investimento per l'efficienza energetica e di risparmio energetico va visto in realtà come una fonte di reddito. Gianni Silvestrini, per parte sua, ha ammesso che l'Italia di questo passo non riuscirà a rispettare gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto e comunque ha indicato che ci sono settori in cui ci stiamo riprendendo rispetto al non fatto degli anni passati. Ma ci sono già le nuove sfide che ci attendono dietro l'angolo, i nuovi obiettivi che incombono. Per esempio il 17% di produzione da fonti rinnovabili al 2020 che ci è stato assegnato dall'Unione Europea, che si è data complessivamente l'obiettivo del cosiddetto 20 più 20 più 20, ossia meno 20% di emissioni di anidride carbonica, più 20% di risparmio energetico, più 20% di uso delle fonti rinnovabili. Bene, si chiude oggi questo ciclo di effetto terra con il quale abbiamo passato in rassegna progetti virtuosi contro l'effetto serra e per la tutela della nostra salute e dell'ambiente. Progetti realizzati a dimostrazione che il cambiamento in meglio è possibile. Abbiamo sentito per esempio il dottor Castellari, lui che frequenta l'IPCC, la Task Force dell'ONU che da anni lavora sui cambiamenti climatici, esprimere pure parole di ottimismo. E quindi vi saluto all'insegna di questo ottimismo, vi ringrazio per essere stati con noi. Per la parte tecnica desidero ringraziare Fabio Giorgetti della sede RAI di Bologna, Nicola Cellurale della sede RAI di Roma, da Silvia Zamboni ancora l'augurio di una serena domenica. Effetto Terra di Silvia Zamboni. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Regia di Paola Roli. Letture di Donato Graziosi. Il terzo anello @rai.it.